Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Raggiungiamo Piombino. Un silenzio irreale, interrotto dal brontolio lontano delle artiglierie, sembra aleggiare sul paese distrutto. Scendiamo a terra. Abbiamo bisogno delle minime cose, anche di ago e filo, per ricucire i bottoni delle logore divise. Sono Roberto, ho la bellezza di 92 anni e molto tempo fa, purtroppo, sono stato un testimone della guerra e spero che non si ripeta più questa esperienza. Oggi abbiamo due belle notizie. La prima è che quella di oggi, la storia di Roberto, è una storia pazzesca. Ogni tanto ne arrivano di storie come queste. Ed è pazzesca perché è una storia che parla di guerra. E come tutte le storie che parlano di guerra oggi nel 2014, dove i problemi ci sono ma sono altri, comunque sembrano arrivare da un'altra epoca. E soprattutto quando a raccontarla è lui con la sua viva voce, lo avete sentito e lo sentiremo più tardi al telefono. Uno che quella roba lì l'ha vista, ci è passato in mezzo, l'ha vissuta e racconta del suo ritorno a casa, al momento in cui è finita, la guerra è finita e arrivo a casa e incontro chi c'è a casa mia e chi penso che ci sia, perché non lo so. Insomma, è una storia bellissima e ne approfitterò per leggervi anche un pezzo magnifico di Dino Buzzati, è un racconto che si chiama Il Mantello, che parla di un ritorno a casa, ma tutto questo più tardi. L'altra bella notizia è che ufficialmente da ieri pomeriggio è online il modulo per l'iscrizione al live di Voi Siete Qui. Se siete davanti a un computer ve lo descrivo passo passo perché è facilissimo. Andate sulla pagina www.radio24.it e ho detto www, credo fosse dal 94 che non lo dicevo, World Wide Web, giusto? radio24.it, appena l'aprite c'è Santoro, Scumose, segnalazione di criticità, bla bla bla, Venezia, corruzione, eccetera eccetera. Andiamo giù, eccolo qua, sulla sinistra, un boxino su sfondo blu con un po' di colori, giallo, rosso, viola e verde, Voi Siete Qui live, ci cliccate sopra e vi appare non un modulo di iscrizione, vi appare un vero e proprio sito creato dalle manine fatate di Francesco Pini, che ringraziamo perché ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono più o meno 3 pagine, c'è un video, un pezzo del video di Mauro Ottolini che sarà presente allo spettacolo e che è già stato qui durante uno dei nostri live, quindi potete risentirvi che tipo di musica fanno, e una parte degli 8 che saranno sul palco quella sera, il 26 di giugno. E poi, a metà pagina, eccolo qua, per partecipare iscriviti subito qui, è sottolineato, ci cliccate subito sopra e vi si apre la scheda di accredito, nome, cognome, indirizzo email, bla bla bla, data di nascita, accettate tutto quello che c'è da accettare e poi inviate, e a quel punto voi siete iscritti. Dopodiché cliccate su stampa, quindi dovrete avere una stampante, vi stampate il foglio che vi rimane, lo firmate, venite qui, lo consegnate, e l'appuntamento è per il 26 di giugno 2014 alle ore 21, Sala Collina, Sole 24 Ore, via Monterosa 91. Siamo qui, racconteremo 10 tra le storie più interessanti, più significative, più rappresentative che ci sono arrivate durante questo anno. È tutto gratuito, lo diciamo sempre, ed è la festa finale del programma, è la terza stagione, ogni anno abbiamo cercato di renderla sempre un po' più interessante, quest'anno sarà un vero e proprio spettacolo perché avremo la musica dei Sousaphonics live a Voi Siete Qui. È arrivato il momento di raccontare la storia di oggi, prima di farlo però vorrei leggervi alcuni dei messaggi che sono già arrivati al nostro profilo Facebook, voi siete qui, Radio 24. Perché la storia di oggi, che parla di guerra, un po' ci dà il destro per chiedere nuove storie che parlino di guerra per il centenario della Prima Guerra Mondiale, che andranno in onda a luglio. Quindi se avete delle storie simili a queste che riguardano vostri parenti o magari avete vissuto voi stesso, proprio come succede a Roberto, voi siete qui, @radio24.it, nei prossimi giorni, così le leggiamo e le prepariamo per il mese di luglio. Altrimenti oggi parliamo dei ritorni a casa dei vostri nonni, dei vostri genitori o di voi stessi se siete ancora vivi, ritorni a casa dalla guerra, come siete tornati a piedi, in nave, in bicicletta. Giulio scrive: mio zio a piedi, nascosto per mesi tra le colline del Monferrato, era un partigiano della 7ª divisione autonoma del Monferrato. Elvira: mio zio dalla Russia un po' a piedi, un po' non so come, è tornato in provincia di Taranto. Invece mio suocero da Monte Cassino a Brindisi a piedi. 349 238 6666, chiudete il finestrino della macchina, accendete l'aria condizionata, fate il più silenzio possibile intorno a voi e ascoltatevi la storia di Roberto. Intanto la linea del fronte di questo teatro di guerra secondario si è un po' spostata verso nord. Raggiungiamo Piombino. Un silenzio irreale, interrotto dal brontolio lontano dell'artiglieria, sembra aleggiare sul paese distrutto. Gli scheletri degli altiforni si stagliano sul cielo. Scendiamo a terra. Abbiamo bisogno delle minime cose, anche di ago e di filo, per cucire i bottoni delle logore divise. Ma tutto è rovina. Cosa possiamo chiedere ai superstiti? Da una porta filtra una debole luce e una botteguccia, una merceria. Entriamo, una donna anziana sta dietro il banco, come se dovesse servire tanti clienti. Ci saluta e ci chiede, con un'ineffabile pronuncia, cosa desiderano? Di dove sono lor signori? Del nord Italia? Hanno notizie delle famiglie? Sì, siamo ritornati a casa. Ero in marina, su una piccola nave che scortava i convogli che portavano tante mercanzie e naturalmente anche armi al fronte di guerra italiano. Ero stato sempre nel sud e a un certo momento, con l'avanzata delle truppe alleate verso nord, i convogli sono arrivati fino a Livorno, insomma, ecco. E così descrivo l'arrivo a Piombino. Il ritorno alla famiglia del grande eroe non avviene però con squilli di trombe ed in bianca uniforme, ma in una notte buia, sopra un camion di sacchi di farina dell'UNNRA, insieme ad altri derelitti che spesso non sanno nulla di quanto potranno ritrovare al loro paese. Tutto è distrutto. Il camion attraversa Recco. I muri delle case sono in piedi, danno l'illusione di poter ancora contenere la vita. Ma le finestre sono occhiaie vuote e nere. Il tetto è sempre il cielo stellato. Dalle persiane divelte pendono stracci bianchi che si agitano come fantasmi, quasi a urlare le sventure e le offese subite. Ma usciti da quell'incubo, l'atmosfera è di nuovo profumata dal respiro del mare e i fiori di maggio rendono la notte luminosa. Arrivato ai piedi della ripida scalinata che conduce alla casa, urlo al guidatore di fermarsi. I compagni di viaggio uniscono la loro voce alla mia, mi salutano e mi augurano di ritrovare la madre che mi aspetta. Mai come in questo lungo viaggio di ritorno ho trovato tanta solidarietà. Eravamo diventati tutti tanto poveri e quindi migliori. Il muro a fianco della scala è crollato, anche qui c'è stata la guerra. Però le macerie sono state rimosse e tutto appare pulito. Il cuore mi batte in gola mentre salgo i gradini. Nel buio una grande macchia bianca di margherite mi accoglie. È l'abbraccio della natura preferita, prima quello della madre. Let's not let it end this way. And everybody knows where this is heading. Forgive me for forgetting. Oh, qualche tempo fa Isabella, la nipote di Roberto, l'autore del racconto, ci ha scritto una mail che diceva così: vi invio alcuni racconti scritti da mio nonno, classe 1921, sulla sua esperienza nella marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Ho preferito non modificarli, essendo stati scritti tempo fa per il libro delle sue memorie. Firmato Isabella e nonno Roberto. Erano diversi racconti, erano più di uno, ma io appena ho letto questo qui, che tra tutti era quello con il finale più dolce, ecco, questo racconto mi ha fatto venire in mente un altro racconto, un racconto splendido, che finisce però in maniera diversa. Si intitola Il mantello, lo ha scritto Dino Buzzati e fa più o meno così. Dopo un'interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh Benedetto!», correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli però non disse quasi una parola. Gli costava troppa fatica trattenere il pianto. «Togliti il mantello, creatura», disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto di essere intimidita. Come era diventato alto, bello, fiero, anche sei un po' troppo pallido. Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che è caldo. Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello, per timore forse che glielo strappassero via. No, no, lasciami, rispose evasivo. Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire. Ma come devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire? Fece lei, desolata, vedendo subito ricominciare, dopo tanta gioia, l'eterna pena delle madri. Devi uscire subito, non mangi qualcosa. No, mamma, ho già mangiato, rispose il figlio con un sorriso buono. E si guardava attorno, assaporando le amate penombre. Ci siamo fermati ad un'osteria qualche chilometro da qui. Ah, ma non sei venuto da solo, dice lei. E chi c'è con te? Un compagno di reggimento? C'è il figlio della mena, forse? No, no, rispose lui, era uno che ho incontrato per la via. È fuori che aspetta, adesso. Lei allora andò alla finestra e attraverso l'orto, di là dal cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta intabarrata, dava la sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa. Giovanni si morse un labbro, sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. Mamma, disse con una voce opaca, mamma, adesso devo andare. Devi andare, ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta. E cercava di scherzare, pur sentendo la pena. Non lo so, mamma, rispose lui, sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta, aveva già ripreso il berretto di pelo. Non so, ma adesso devo andare, c'è quello là che mi aspetta. Poi la fissò con uno sguardo da cavare l'anima. Si avvicinò alla porta, i fratellini ancora festosi gli si strinsero addosso e Pietro sollevò il lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto. «Pietro, Pietro, cosa fai? Lascia stare, Pietro!» gridò la mamma. Temeva che Giovanni si arrabbiasse. «No!» esclamò il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Era troppo tardi però. I 2 lembi di panno azzurro si erano dischiusi in un istante. «Giovanni, creatura mia, cosa t'hanno fatto?» La madre lo balbettò, prendendosi il volto tra le mani. «Giovanni, ma questo è sangue!» «Adesso devo andare, mamma», ripete lui ancora una volta. L'ho già fatto aspettare abbastanza», disse. «Ciao Anna, ciao Pietro, addio mamma». Ed era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraverso l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. 2 cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, ma non già verso il paese, no, attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa, prima di condurselo via per sempre. Affinché potesse salutare la madre, così paziente da aspettare diversi minuti fuori dal cancello, in piedi, lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come un pezzente affamato. Sinfulness call, sinfulness fall, such was the Lord. Sinfulness call, sinfulness fall, such was the Lord. Giovane e impavido nella foto in bianco e nero che ci ha mandato Roberto e che trovate sul nostro sito, come sempre, radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui. È in marina, ha su una divisa bianca, dei gradi, ma vabbè, chiederemo meglio a lui che tipo di gradi, se sono gradi, guarda dritto davanti all'obiettivo ed è ovviamente tutto in bianco e nero. Pronto Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi Ciao. Dica bene, bene, complimenti. Come sta? Posso darti del tuo, Roberto, visto sì, che do del tuo a tutti gli ascoltatori che mandano, credo che i racconti. Credo che ci sia una certa differenza d'età, ma insomma. Lo immagino, 93 giusto, possiamo dirlo. Quasi 93. Sì. Quasi 93, perché sei del 21, Roberto. Sono del 21, sì, ma è ottobre, quindi insomma in ottobre. Se ci sarò ancora compirò 93 anni. E noi saremo qui con te a festeggiarli. Va, noi dobbiamo ringraziare innanzitutto tua nipote, nipote che ha deciso, ha deciso di mandarci. Non mi aspettavo che fosse così solerte. Tra l'altro, mi permetto di darti del tu, nonostante so che tu sei stato poi professore all'università, insomma, hai avuto una carriera per il quale servirebbe il voi, forse. Però, Roberto, io vorrei chiederti una cosa, sostanzialmente, visto che ho l'opportunità di farlo, e mio nonno è mancato quando io avevo 10 anni, e quindi non sono mai riuscito a chiedergli delle cose legate alla guerra. Sono passati 70 anni da allora, più o meno, più di 70 anni. I ricordi che hai, ce li hai come ricordi di una cosa che è accaduta realmente, oppure sono davvero di un'altra epoca? Ti sembra un'altra vita? Per adesso sono vivaci, insomma, sì. Sì, anzi, sono rimasti proprio, e tra l'altro aiutati anche da quello che ho scritto un po' di ormai parecchi anni fa. Sì. E dalle foto, eccetera, insomma, no, direi che sono ricordi vivaci. Tu eri in marina, quindi eri imbarcato? Io ero imbarcato su una corvetta, sì. E... quando, no, io veramente prima dell'8 settembre ero imbarcato sulla corazzata Duilio a Taranto, e ci siamo andati a Malta, e poi da Malta con la cobelligeranza siamo ritornati in Italia. E poi ho aspettato un po' e poi mi hanno rimbarcato su questa piccola nave, e lì ho fatto il resto della mia carriera. Quando vi siete arresi, cioè siete arrivati a Malta, dove? Alla Valletta, e avete detto ragazzi, siamo rimasti sempre a bordo. È salito a bordo solo un piccolo picchetto inglese. No, è stata una cosa abbastanza dignitosa, diciamo, ecco. Ok. E a quel punto siete passati da quella parte? Poi appunto c'è stata la Badoglio, la cobelligeranza, e quindi abbiamo combattuto da quella parte. Tu avevi notizie di casa tua? Avevi notizie di tua mamma? Non ho avuto alcuna notizia io, mentre invece non ho avuto per quasi 2 anni. Niente, non una lettera, non... Niente, assolutamente niente. Invece loro hanno avuto, attraverso la Svizzera, mi pare un paio di lettere che io ho scritto. Ah, ok, quindi tu scrivevi comunque io, a loro. Sì, io scrivevo, e loro le hanno ricevute, invece io non ho mai avuto nulla. Senti Roberto, tu all'epoca quanti anni avevi? 21, 22? Ne avevo 20. 20. Avevi già una fidanzata? No. Ok, quindi era la famiglia che ti aspettava. No, non avevo niente, sì, solo sogni così. Senti, invece un'altra cosa, perché appunto sono sempre racconti, si leggono sui libri di storia, ma tu avevi... io ho scritto un libro, insomma, abbastanza... E quindi... Sì. Lo sai bene. Quante volte ti è capitato di avere paura veramente? Cioè di dire, vabbè, non ne esco da qua. Paura veramente? Boh, direi, non lo so, è una cosa un po' difficile a dirsi, insomma. Sì, abbiamo prima dell'armistizio, abbiamo fatto un'azione di guerra, però, insomma, io ero un po' incosciente, insomma, non avevo una grande paura, ecco. E ti ricordi il giorno invece in cui sei partito? Eri triste? Il giorno in cui sono partito per il primo imbarco, sì, insomma, mi sono venuti a salutare fino a Taranto. Sono venuti i miei genitori, poverini, non so come hanno fatto. Sono arrivati a Taranto per salutarti? C'era già una certa difficoltà di comunicazioni, insomma, le ferrovie non è che andassero molto bene, c'erano i bombardamenti. Immagino. E loro sono venuti fino a Taranto per salutarmi. Roberto, io starei tutto il giorno a chiacchierare con te, ma devo dare la linea, devo chiudere il programma. Io ti ringrazio ancora per la storia, e io formalmente ti invito, noi il 26 di giugno facciamo una serata dal vivo qui, se magari con tua nipote, con i tuoi figli avete voglia di venire fino a Milano e a godervela, noi saremo molto molto contenti. 26 di giugno, va bene. 26 di giugno, d'accordo, mi tengo a contatto con mia nipote. Bravissimo, lei sa tutto. Va bene. Roberto, grazie ancora. Grazie ancora a voi. Ciao, a presto. Ciao. Grazie a Roberto, che altro dire? Grazie a chiunque mandi storie come queste, o anche semplicemente storie della sua vita, come facciamo tutti i giorni, a voi siete qui. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie di nuovo a Roberto, la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Giovanni. Vivo a Montefalcione, un paese in provincia di Avellino. La storia di domani è la mia, e parla di come ho iniziato a giocare a tennis. Questa è la mia storia e io sono qui.